Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questo brano si intitola Retribution ed è dei Behind Enemy Lines, band statunitense, ma qui come sigla di questa trasmissione che è iniziata ora, cioè dalle ore 20 alle 21.30, siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, come già detto, e andiamo con ad a presentare quel un disco che è di una band della attualmente della Serbia, ma all'epoca era nato insomma in Jugoslavia. Comunque loro sono di Belgrado e da un loro 12 pollici che si intitola Rejection, e ci ascoltiamo un paio di brani. Loro sono i Dead Ideas. We'll be right back. Bene, un saluto da, anche da parte mia per questa puntata di stasera di Zerlings Magnetics. E stasera appunto parleremo di varie cose. E prima di partire con tutta la carne che c'è da mettere al fuoco, voglio ricordare che stiamo trasmettendo da Udine, dagli studi di Radio Onde Furlane, in diretta sull'FM 90.0, come ben sapete, oppure in streaming anche in diretta fuori dal Friuli, è raggiungibile soliti canali che sapete. Poi c'è la differita, ovvero qualcuno ci sta probabilmente ascoltando anche venerdì, non il giovedì, venerdì su Radiazione, una web radio che ci ospita e che salutiamo. E infine c'è il podcast, ovvero ci state ascoltando a un'ora che vi fa comodo e che insomma vi permette di ascoltarci con agio da ovunque. Dicevo, trasmettiamo da Udine, da questa Udine piovosa, che si sta preparando ad ospitare i 500.000 simpatici potenziali assassini della dunata nazionale del Corpo degli Alpini. Sicuramente questi potenziali, sicuramente diverse decine di assassini reali, realistici, che vanno in giro per tutto il mondo a commettere le loro gesta. E la settimana questa degli esiti elettorali politici di questo paese di, sì, alla Zuava, l'avevo definita un'altra puntata. Sono diversi giorni che tutte le radio, tutti i TV, tutti i media ci stanno triturando con questi risultati. Cioè, non basta il lunedì, bisogna andare avanti finché, non so, finché viene fuori da tutti i pori. Noi dribbliamo questa maledizione, invitandovi ad ascoltare invece un contributo, cioè invitandovi ad andare ad ascoltare un contributo realizzato dai compagni di Macerie su Macerie, un programma della radio di Torino, Radio Blackout, che potete raggiungere anche questa, anche se non siete di Torino, attraverso lo streaming o attraverso il podcast. Ed era una puntata di lunedì che appunto commentava sui generis, diciamo, gli esiti delle elezioni, e che invece appunto conteneva un'intervista inedita a una ricercatrice, Siobhan McGeerk, autrice di Asylum for Sale, Profit and Protest in the Migration Industry, che io ho ascoltato, però adesso non parleremo di quello. Vi praticamente leggo questo testo che accompagnava quell'audio. Nuova stagione di Macerie su Macerie si ricomincia subito dopo le elezioni politiche italiane. C'è un fronte di buoni che si presenta sconvolto a seguito del risultato delle urne che mette al governo la destra di Giorgia Meloni. Un'elezione che non dovrebbe stupire affatto dopo l'ultimo decennio di guerra sociale spudorata. 3 anni di gestione pandemica delirante da parte di un Parlamento plebiscitario. Espulsione per oltre un anno dei non vaccinati Covid da tutti i diritti di cittadinanza. 2 governi tecnici, fra virgolette, che esaurite le possibilità di tagliare la spesa pubblica sono passati a organizzare scientemente il più grande esproprio di beni che si ricordi ai danni degli sfruttati. Beni primari e beni monetari, no? Cioè, perché sia vengono Ci troviamo insomma col problema concreto e, insomma, che ci condiziona ben tutti, insomma, dell'aumento, insomma, dei prezzi dei beni di consumo, ma c'è anche il discorso dei beni finanziari, che quindi, insomma, che comporta tutta una serie di altri aumenti, altri, insomma, taglieggiamenti ai danni inesorabilmente degli sfruttati. Certamente si tratta dell'ultimo tassello di un piano di lungo corso, ma sarà quello che cambierà inesorabilmente i meccanismi sociali a un punto tale da non garantire più neppure la sopravvivenza biologica di intere fasce di popolazione. L'impatto devastante di un'economia compiutamente finanziarizzata che si assicura sovranità assoluta manu militari, dentro e fuori gli scenari della guerra propriamente detta, è lo stato di cose in atto nell'ultimo lustro. Ora ha anche dismesso le ultime cortesie e mostra i suoi volti secolari, il carro armato e il prezzo del grano. I rappresentanti dei partiti politici sono quelli, appunto, quelli del fronte dei buoni, e si trovano in questa aurora buia e luttuosa nient'altro che attori che continuano a recitare il copione della commedia, volendo far credere agli ingenui e disperati e agli incattiviti che l'atto non sia finito in tragedia e che ci sia ancora qualche ingranaggio di scena che attraverso il voto possa essere cablato in una maniera o nell'altra. La promessa di redistribuzione dei rimasugli nel fondo non è che l'arma ultima di un parlamentarismo arrivato ormai allo stadio di putrescenza. C'è chi straparla di servizi garantiti agli italiani, chi di un diritto civile in più, chi si mette la mano sul cuore per assicurare il documento giusto per lo sfruttamento intensivo in un paese ostile. Rimasugli, appunto, anche di immaginario, e Giorgia Meloni porterà a realizzazione una previsione fin troppo facile, quella di creare grandi querelle intorno alla sua infima agenda di governo, sulle briciole, sui pezzi avanzati, cercando di deragliare, come già accaduto nell'esperienza del berlusconismo, le energie necessarie a rovesciare il banco e attaccare verso diatribe culturali per la conservazione di una qualche cosa. Bisogna riconoscere gli specchietti per le allodole di questi parolai dalle diverse casacche e vedere la realtà della dominazione. Proviamo a farlo in questa puntata partendo da uno dei punti forti della propaganda della destra, che è stato, manco a dirlo, quello sugli immigrati, sulla limitazione degli ingressi di popolazione utile ai bisogni lavorativi del sistema paese. Un discorso sordido, osteggiato dai competitors con una retorica altrettanto, cioè competitors, sapete chi sono, sarebbero gli cosiddetti avversari di questi dell'estrema destra, con una retorica altrettanto ributtante da umanitarismo spicciolo, come se nella creazione del sistema della detenzione amministrativa, delle frontiere, dell'accoglienza impresa, delle borse lavoro o dei lager libici non siano coinvolte tutte le forze politiche e in modo particolare nella storia italiana proprio quelle della sinistra. Quindi ai microfoni Blackout proponiamo un'intervista inedita a Siobhan McGeerk, autrice di Asylum for Sale, Profit and Protest in the Migration Industry, che fuori dalle retoriche facilone sulla libertà o meno di movimento descrive la storia della costruzione delle frontiere, della concessione di documenti e dei sistemi di protezione internazionale come politiche di risposta a esigenze del mondo capitalizzato di chi organizza l'oppressione attraverso riproduzione di modelli gestionali per il profitto. Buon ascolto, diceva questa presentazione, e morte a tutti i governi, ovviamente morte anche a tutti gli stati, e direi di mettere, si può mettere un brano. No, non quello. Quel brano di musica. Ole stoput Ungaricum. Ungaricum ole stoput Ungaricum. Bene, mentre sta andando questa band, volevo ricordare all'inizio che abbiamo fatto ascoltare la band serba Dead Ideas, mentre ora direttamente dall'Ungheria, esattamente da Budapest, questa band i Discobra, con evidente riferimento alla band inglese dei Discharge, dalla grafica, dal nome della band, da un loro 7 pollici, un EP 7 pollici uscito completamente autoprodotto nel 2016, band comunque tuttora esistente da oltre una decina d'anni. Eccoci di nuovo in onda dall'acquario, qua, cioè dalla parte opposta alla regia di questi studi di Via Volturno di Udine, di Radio Onde Furlane, per giovedì 29 settembre, Zardins Magnetics. Sono le 20:34. Siccome il 29 settembre, adesso fra poco metteremo anche penso il brano di... scherzavo, no? Non stasera, ma comunque siamo ancora in tempo perché settembre è un mese pieno di ricorrenze. E prima di parlare di settembre vi ricordo che questo programma, che è Zardins Magnetics, va in onda ed è realizzato dall'Assemblea Permanente contro Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, e poi a fine puntata ricorderemo anche i contatti per raggiungerci. Dunque, dicevo di settembre. Settembre ci sono delle ricorrenze che abbiamo scelto per la puntata di stasera, dove andremo a parlare, insomma, di ribellione, di pensieri sull'anarchia. Allora, il 10 settembre 1898 l'anarchico Luigi Lucchini, e con una pugnalata uccide Sissi, la principessa Sissi Elisabetta di Baviera. La testa di Luigi Lucchini, che quando è stato trovato impiccato nella sua cella aveva 35-37 anni, La testa di Luigi Lucchini fu recisa e messa sotto formalina. E nel 1998, nel centenario dell'attentato, il governo della Confederazione Elvetica donò questo cimelio, che era la testa del nostro compagno, all'Istituto di Patologia di Vienna, dove penso che sia tuttora conservato. Invece il resto della salma è in un cimitero di Vienna, pure quello. E invece il monumento, passando ad altro, il monumento in bronzo e marmo della principessa Sissi è stato, diciamo, che fu inaugurato a Trieste nel 1912, poi con l'arrivo dei regnicoli non so che fu rimosso, non so adesso il dettaglio, chi se ne frega anche. Però nel 1997 lo hanno tirato fuori non dalla formalina, ma da qualche posto del comune dove l'avevano messo, e l'hanno ricollocato in Piazza Libertà, dove tuttora lo trovate, fatto in bronzo e marmo. Non so se l'ho detto, sì. Boh. E questa cosa ci fa pensare che, appunto, cioè il nemico si prende non solo i compagni che sono prigionieri e li mette sotto, insomma, tiene sotto, li priva della libertà, ma anche non gli basta questo, si impossessa anche dei poveri resti di questi compagni. E Luigi Lucchini era, come ho già detto, un compagno anarchico, individualista, di umili origini. Quando lui agisce, sì, è importante ricordare anche questo, a Trieste esiste un editore che si chiama Edizioni Anarchismo, e nel 2009, è da dire anche questo, insomma, è stato pubblicato, editato, insomma, stampato un libro di Luigi Lucchini dal titolo Come e perché ho ucciso la principessa Sissi, negli opuscoli provvisori. È un libretto piccolo, insomma, 50 pagine, però importante, perché riporta le parole del compagno, insomma, riprese dai verbali, insomma, i conflitti col potere giudiziario, con questi esponenti, insomma, che lo interrogano. Lui non abbassa mai la guardia, va sempre al contrattacco, li smentisce, loro cercano tutti i modi, insomma, di trovare i suoi, quelli che secondo loro sono i suoi, quelli che l'hanno aiutato. Lui, insomma, non cede mai, rivendica sempre quella che è stata la sua azione, erano gli anni in cui, appunto, c'era la propaganda col fatto, e la propaganda col fatto c'è ancora, non è che è sparita o che si è trasformata in inchiostro e sta chiusa nei libri. E ci sono dei compagni anche oggi, anche in questo momento, rinchiusi nelle celle dello Stato, insomma, in particolare compagno Alfredo Cospito si trova, come abbiamo già ricordato, diciamo ogni volta, nelle sotterranee, addirittura in isolamento a Bancali, presso Sassari, in regime di 41 bis, per aver, appunto, agito in maniera individualistica e secondo, appunto, il metodo della propaganda col fatto, teorizzato, si diceva, alla fine dell'Ottocento. Quindi nel 894 fu colpito Carnot, che era l'allora primo ministro francese, fu colpito per opera di Sante Caserio. Nel 897, ricordiamo, Canavas, o Canovas, l'ho scritto male, del Castillo, capo del governo spagnolo, per opera del compagno Michele Angiolillo, che fu garrottato. Nel 98, dicevamo, la principessa Sissi, appunto, che si aveva tutta questa aura da, che ancora oggi, insomma, questa aura da pittore, insomma, romanzesca, da, insomma, falsa, che era semplicemente la consorte dell'imperatore Franz Josef, anche se aveva 60 anni quando è stata colpita, insomma, quello non cambia il discorso. E, nel 1900, questo è più, insomma, è più noto, Umberto I, re d'Italia, per opera di Gaetano Bresci. Nel 1901 fu ammazzato anche un presidente degli Stati Uniti, ed era McKinley, un repubblicano efferato, e il compagno anarchico che lo colpì si chiamava Leon Zoll Ghost, era cittadino statunitense e, sì, di origini naturalmente europee, centroeuropee, immagino, polacco mi sembra, e praticamente leggo, insomma, ho letto un articolo che è uscito riguardo questo discorso qui della propaganda col fatto, e, che si intitolava Assassinio, l'anarchismo e la nascita dell'FBI. Cosa significa? Praticamente, quando è successo questo attacco al presidente degli Stati Uniti nel 1901, la reazione fu che Roosevelt, che fece seguito a McKinley, in sostanza mise in piedi tutto un sistema repressivo più, diciamo, più preciso, più stringente. E niente, l'articolo invitava, che poi metteremo magari nei riferimenti sul blog, invitava a riflettere, anche attualizzando all'oggi, il discorso sul fatto che, appunto, quando vengono presi di mira, anche perché nel caso di, appunto, di McKinley fu arrestato, e anche negli altri casi che vi ho citato ci fu un grande numero di arrestati fra gli anarchici di quegli anni. Nel caso di McKinley fu arrestata anche Emma Goldman, e quindi poi scarcerata. Prendere di mira gli anarchici conosciuti da tanti compagni, e il crescere della repressione portò quella volta molti nel movimento a prendere distanze dal movimento stesso, no? Come esito, quindi desolidarizzare con questi, non solo con gli autori degli attacchi, ma anche con altri compagni più in vista. E, insomma, ritornando a McKinley, il fatto è che il nemico, insomma, lo Stato, il capitale, approfittarono di questo evento per ridefinire la vita in società stessa, insomma, le relazioni sociali, colpendo naturalmente i dissidenti e rafforzando, insomma, lo Stato di polizia, per non solo per quell'epoca là, ma anche per le generazioni a seguire, con, appunto, le prime strutture dell'FBI, che è appunto la polizia, insomma, sì, le forze dell'ordine federali degli Stati Uniti, che, appunto, nascono in funzione antianarchica, e tuttora sui documenti ufficiali, sui canali ufficiali dell'FBI è ricordata questa, cioè, viene chiaramente, poi viene identificato l'anarchismo con il terrorismo, E questa origine qui viene rivendicata, insomma, dell'ordine, della pace sociale, eccetera. E quindi era il 10 settembre 1898, e siamo ancora in tempo, insomma, per ricordare questo compagno, Luigi Lucchini, e possiamo mettere adesso un brano. Ci stiamo ascoltando questa band statunitense, loro sono i War Cry, da un loro album The Program, che è del 2005 ed è una band, ovviamente una band parallela, nata con alcuni componenti dei Tragedy e altre band comunque di, come ci ha detto, di Portland nell'Oregon. E comunque questo disco poi è stato anche ristampato qua in Italia grazie al G-Punk nel 2015. Comunque War Cry direttamente dal 2006, il loro album The Program. Allora, di nuovo in diretta qui da Zardins Magnetics, settembre, perché siamo il 29 settembre, ancora un giorno, questo mese sarà, lo saluteremo, ed è il pretesto per parlarvi di un dell'anniversario della scomparsa di un mito di Hollywood che si chiamava James Dean. Che è rimasto ucciso in un incidente appunto sulla sua Porsche il 30 settembre 1955, che appunto non è nessuna ricorrenza, però era solo una scusa per parlarne. E nel 1955 gira come protagonista un filmone che si chiamava in italiano Gioventù bruciata, insensato, un titolo insensato perché il titolo originale era Rebel Without a Cause, ribelle senza una causa, senza un motivo, ed era il ritratto, insomma, della, non è vero che era il ritratto di niente, di nessuna generazione, né della sua né di quelle dopo. Sì, era un po' anticonformista, come si presentava sempre senza cravatta, queste cose qua per quell'epoca erano insomma hard, però è più che altro un filmone secondo me, perché sì, vale per sempre, è una riflessione, insomma è una visione dell'essere sempre sinceri con se stessi soprattutto, e di andare fino in fondo nelle cose. E adesso secondo me è il momento in cui riusciremo a mandare uno spezzone, breve spezzone del film doppiato in italiano. Ecco, proviamoci. Figlio mio, ma non è questo che mi tormenta, papà. Io non ho mai fatto niente di buono, ho sempre combinato guai senza rendermene conto. Non volevo neanche parlartene, ma è stato più forte di me. Non si può, dopo un fatto simile, andare in giro con indifferenza facendo finta di infischiarsene. Hai ragione. Non si può, neanche facendo grandi sforzi, non si può. Si sente dentro come... Hai perfettamente ragione. Ma tu non mi ascolti! Sei responsabile del fatto quanto me! Ora andrò alla polizia a dire che sono coinvolto nell'incidente, e non voglio... Ti ha visto nessuno lassù, ti hanno preso la targa! Non lo so! Credi che degli altri presenti qualcuno andrà alla polizia? Non mi importa, lo volete capire? Perché voglio essere l'unico ad andarci di mezzo? Io non pretendo di dirti quello che devi fare, ma... Cominci con la predica, dobbiamo anche ascoltare il sermone ora! Cercavo di spiegargli la tua idea, non si può essere sempre idealisti, nessuno ti ammirerà... È diverso, si tratta di noi stessi! Stammi a sentire! Ho già capito. Non vuoi che mi presenti? No! Non voglio che tu vada alla polizia! C'erano altre persone, perché devi essere l'unico implicato? Perché sono implicato, siamo tutti implicati! Mamma, un ragazzo come me è morto stasera! Non vedo come io possa uscirne fuori facendo finta di niente! Basta convincersi di non averne nessuna colpa! Solo questo è l'importante! Non è vero! Ma... Non conta assolutamente niente. Papà, me lo hai detto tu che si deve dire sempre la verità. Non hai detto così? Non puoi rimangiartelo ora. Non dice non questo. Puoi. Dice solo di non fare il volontario. Cioè di dire una piccola bugia. Imparerai quando sarai più grande, Jim. No, io non voglio imparare a vivere in questo modo. Come prima cosa ci trasferiremo altrove. Non mi farò portare a spasso un'altra volta. Questa è bella, e perché andare? Devo mettere i puntini. Sono stufo di servirvi ancora da pretesto. Non capisco. Ogni volta che si crea una situazione critica, incolpate me. Non è vero. O metti la scusa mia oppure metti la scusa dei vicini. No. Ma tu metti sempre delle stupide scuse. Mamma, una volta tanto voglio fare una cosa giusta. E non voglio scappar via di nuovo. Papà, queste situazioni mi hanno... Papà, ti prego, aiutami. Ti supplico, cerca di capirmi. Jimmy, tu devi sei tanto capirmi. Giovane. Una decisione inconsulta potrebbe rovinarti la vita. Fra 10 anni non ti ricorderai di papà, quello che ti sento. Papà, rispondile. Diglielo. 10 anni. Papà, voglio la tua risposta. Avanti. Parlale tu per me. Alzati! Salvati, Jim! No! Per carità, fermati! Alzare le mani su tuo padre! Ecco, siamo sempre noi qui a Zardins Magnetics, era appunto una sequenza di Rebel Without a Cause, era il protagonista, era sostanzialmente era in un momento in cui si confrontava con i genitori, diciamo così, perché abbiamo preso questo spezzone, perché appunto dicevo prima non è il ritratto di una generazione, cioè è anche il ritratto di una generazione, però soprattutto è importante da capire, secondo me, cioè che mi ha permesso a me capire questa cosa, è una verità, diciamo, tra virgolette, eterna, ovvero il fare finta di niente versus dire la verità, no? Perché non è solo il fatto di questo, della trama del film dove c'era appunto un incidente dove moriva un amico di James Dean, sì, del personaggio, si chiamava Jim, e potrebbe essere qualsiasi cosa, insomma, anche quando muore chi che sia, anche non strettamente conosciuto, anche una morte in un CPR, anche un ritrovamento di qualcuno che dentro le mura di un carcere, che senza vita, e tutto questo appunto è qualcosa che ci spinge, dovrebbe spingere ogni essere umano a provocarlo, ad agire, a reagire soprattutto, e invece normalmente questa società decadente che è la nostra incoraggia tutti noi fin dalla cosiddetta tenera età a negare quello che si vede, a far finta di niente, a comportarsi in maniera opposta a quella che sarebbe l'istinto, e questo sostanzialmente è una così ci permette adesso, fra poco, dopo nel nostro ultimo intervento, di parlare anche dell'ultimo tema di stasera, che, come era stato annunciato appunto, erano gli scritti di Juan che sono stati pubblicati, e che appunto i due dragoni del mio anarchismo, scritti di Juan Sorroque, però adesso manderemo un po' di musica. We'll be right back. Stiamo ascoltando questa band inglese, una band comunque che ebbe gli esordi proprio all'inizio degli anni 80. Loro sono i One Way System, questo è il loro album del 1983, All System Go. Ben ritrovati, bentornati siamo su Zardins Magnetics, sono le 21.08, ci avviciniamo, insomma, siamo nel cuore della puntata, diciamo, e vi dicevo di Juan Soroque. Allora, prima di vedere un po', insomma, quali cose, suggestioni ci hanno provocato la pubblicazione di alcuni suoi scritti, ricordiamo che Juan si trova rinchiuso in alta sorveglianza a Terni. L'indirizzo è Strada delle Campore 32 0500 Terni, per chi vuole scrivergli, e lo ripetiamo perché comunque sì, diciamo che è un compagno che gradisce il confronto, così la rimanere in rapporto, anche insomma iniziare anche così delle corrispondenze. Quindi ripeto, Juan Antonio Sorroque Fernandez, Strada delle Campore 32 0500 Terni, dicevo in alta sorveglianza perché dunque è stato catturato nel maggio 2019 mentre era irreperibile, diciamo, dopo oltre 2 anni di latitanza, un compagno anarchico spagnolo che per anni ha vissuto in Trentino. E in particolare, cioè, lui sfuggiva, diciamo, a un cumulo di pena di circa 8 anni e per condanne relative a partecipazione a lotte varie, in particolare però appunto aver partecipato alla giornata di lotta del 3 luglio 2011 in Valsusa, al cantiere di Chiomonte, quando appunto fu sgomberata l'occupazione del movimento che si denominava Libera Repubblica della Maddalena, e ne seguirono degli scontri, appunto, sì, scontri molto partecipati. Nel processo Juan rivendicò a testa alta la partecipazione a quella giornata e rifiutò di farsi difendere, cioè dichiarò di non vedere dove fosse la necessità di difendersi per una cosa che invece di cui andare fieri, e cioè di aver difeso appunto il territorio della Val di Susa dall'aggressione, insomma, di Stato e capitale. Quindi poi gli è stato formalizzato un'accusa di strage, e in particolare riguarda un'azione contro la sede provinciale del partito, appunto, della Lega, compiuto a Villorba di Treviso nell'agosto 2018, rivendicato tra l'altro dalla cellula Aris Azimi Elakis Internazionale Nera, ovvero insomma poi la repressione ha legato questa cosa al fatto che Juan fosse riconducibile alla FAI, insomma alla Federazione Anarchica Informale. E quindi appunto lui si trova a Terni in questo momento in condizioni di carcere speciale, insomma, come abbiamo detto altre volte, quindi i colloqui per lungo tempo gli sono stati negati con varie scuse, si trova, non può fare l'aria con altri detenuti, solo con quelli della sua sezione, la posta viene censurata, eccetera eccetera, insomma viene controllata quantomeno. Cosa fondamentale invece è che in alta sorveglianza, nei regimi speciali, ormai l'imputato non partecipa più fisicamente al dibattimento in aula, è obbligato a seguire il dibattimento in videoconferenza, e questo è stato il suo destino per questo processo relativo all'attentato, ossia all'attacco alla sede della Lega di Treviso. È una cosa vergognosa, insomma, anche questa, perché appunto quando si è in videoconferenza c'è sempre non c'è mai la libertà di potersi esprimere, c'è sempre basta pigiare un tasto, insomma, alla controparte basta pigiare un tasto e le parole del compagno sono inudibili. Nel incominciare a parlarvi finalmente di questi due dragoni, io così ho percepito in questi suoi scritti, che sono praticamente stati diffusi attraverso il blog Il Rovescio, I due dragoni del mio anarchismo, lo trovate, insomma, qualcosa di diverso dai soliti, cioè non dai soliti, intendo, non è semplicemente una dichiarazione, diciamo, ordinaria di militanza, anche di militanza, se vogliamo, anche col cuore, eccetera, eccetera. È proprio uno sguardo, cioè una potenza che c'ha, secondo me, questo compagno, di uno sguardo filosofico sulle cose. I due dragoni, sostanzialmente, ve lo svelo, insomma, sarebbero da un lato, appunto, l'istinto individuale ad agire, diciamo, buttarsi nella mischia in maniera immediata, a vivere, a tentare di vivere senza ostacolo, a tentare di poter realizzare la non, appunto, lui dice la non alienazione. Un lato è questo, appunto, quello individuale, l'altro lato è quello della lotta di classe, lotta all'alienazione, lotta di classe, partecipare alle lotte, quindi praticamente l'organizzazione, no? L'organizzazione anche per i compagni che abbiamo citato prima, per appunto di un'altra, non solo generazione, anche un'altra epoca, però che ci sono in qualche maniera vicini. E anche per, appunto, Luigi Lucchini, attentatore di Sissi, della principessa Sissi, ogni organizzazione era equivalente a burocratizzarsi, diciamo, quindi a svilire la vitalità, insomma, del proprio momenti decisivi, insomma, di vita lotta. Ecco, c'è questa diade che Quan così mette in evidenza. Lui parla di vita lotta, vivere lotta, anzi vivere e lottare all'infinito, no? Un infinito singolare, perché appunto è come una combinazione variabile di punti singolari, diceva Luz Irigaray. E quindi Quan si rifà al proprio tale quale, diciamo, al pensiero zen o chan zen taoistico, lui dice. Quindi è questo articolo che l'articolo si intitola Il mio, fra virgolette, individuale esistenzialismo mistico anarchista, tutto con trattini, e dove spiega appunto che non si tratta di un esistenzialismo che ha a che fare con la tradizione, diciamo, europea occidentale del Novecento. Non è questo il discorso. Lui appunto ribalta la questione e evoca questi esiti del pensiero orientale, diciamo, perché appunto tutto quello che ho appena detto, il taoismo e lo zen, sono tutte, diciamo, tradizioni che sono arrivate dall'estremo oriente, diciamolo, perché comunque, anche se diciamo delle cose elementari o banali, elementari o da bignami, per aver chiare le cose, il taoismo è una tradizione magico-sciamanica che appunto portava, cioè partiva dal temperare cioè dalla temperatura del corpo. Era messo in primo piano il corpo e c'era un l'obiettivo, diciamo, il finale era un ideale di vita autonoma, naturale, libera, gioiosa. Ovviamente naturale voleva dire che seguiva la natura nel senso del Tao, ovvero caratterizzata dal non agire, nel senso la natura, ognuno di noi sa, cioè la natura vuol dire lasciare le cose andare naturali, vuol dire lasciarle andare senza interventi, ma questo appunto è un agire senza agire, no? Il Wu Wei si chiama. E poi appunto passando in Giappone queste suggestioni si concretizzano appunto nella meditazione zen, meditazione fra virgolette, appunto, perché era proprio una modalità di vita, di stare al mondo, che portava tutta l'iniziativa sull'io e non sugli altri. Anche questo è una caratteristica degli anarchici, di non lamentarsi, di non dare la colpa sempre agli altri, di non aspettare la rivoluzione, di però partire immediatamente da sé, da iniziare dall'io. E io, fra virgolette, non l'io, quello oggettivo, quello da conoscere in un processo continuo di sperimentazione e soprattutto di evolversi, un evolversi continuo e senza fine, cioè la fine è la morte, ma dopo la morte, appunto, dice stesso Quan, lui vede solo l'assoluto, cioè che cosa? Il meccanicismo, il cosiddetto paradiso meccanicistico, lui lo chiama, che è appunto una visione completamente senza vita, no? Niente, c'è questo approccio qua, che però appunto qua non, a differenza del discorso che avevo preso, insomma, accennavo prima sull'organizzazione, non nega l'organizzazione completamente, e c'è insomma uno stile da farsi di questo organizzare, che è soggettivo, individuale per ognuno di noi, ma è allo stesso tempo molto alla portata di ciascuno di noi, di ogni individualità, ognuno a suo modo, ognuno partecipa al divenire evolutivo universale di questa realtà. Quindi, come vi dicevo, sono degli spunti molto molto stimolanti e molto potenti. Soprattutto un altro articolo che c'è, cioè in questo opuscoletto, molto importante, che però magari ne riparleremo, è un articolo scritto qualche anno fa, autoprodotto e pubblicato qualche anno fa, sempre da Juan, e c'è un uomo maschio dove appunto vengono ribadite questi punti saldi, insomma, dell'evolversi in maniera autonoma, di differenziarsi non dico dai luoghi comuni, magari dai cliché, ecco, che si sentono e non vengono però propriamente interiorizzati, che sono quelli del femminismo, quello appunto mainstream, o così preso solo senza mettersi in gioco, ecco. È molto interessante anche questo spunto, sicuramente ne riparleremo. E c'è un uomo maschio. E penso che intanto i minuti scorrono, siamo quasi agli sgoccioli, e io direi che per questa sera può bastare. Spero, insomma, di avervi stimolato ad andare a vedere questo opuscolo di Juan Sol Roque, e noi per parte, per quello che possiamo fare, gli mandiamo un abbraccio e così solidale, e un saluto, lo ricordiamo sempre, e anche se non l'abbiamo conosciuto, io non l'ho conosciuto di persona, questo non importa. Per questa sera è tutto, davvero un saluto e al prossimo giovedì. E intanto adesso andrà ancora un brano per questa band inglese, storica band della narco punk, ovvero i Poison Girls, che ci stiamo ascoltando, appunto era anche in precedenza durante l'intervento, che dal loro EP 12 pollici datato 1979, che appunto si chiamava Piano Lessons Closet Shop. Loro sono i Poison Girl. Bene, poi anche siamo giunti al termine di questa trasmissione, che ripetiamo è Tardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Ponte Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21:30. Come ogni giovedì in conclusione vi leggo i nostri contatti, che se volete scriverci nella posta elettronica dovete farlo a intestare a liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Inoltre, se volete scriverci in forma cartacea, alla vecchia maniera, dovete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre ricordiamo che questa trasmissione, ma anche tutte quelle degli scorsi giovedì, potete ascoltarlo e ascoltare andando a zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Torno a dire zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre, domani andremo in onda dalle 17 su Radiazione. Dovrei anche lì dirvi tutti i contatti, ma non mi sono preparato per questa cosa, anche perché domani è, diciamo, la seconda puntata, cioè la seconda volta che noi andremo in onda lì. Comunque siamo giunti al termine, come detto, e andiamo all'ascolto di un ultimo brano, che tra l'altro abbiamo anche ascoltato In precedenza, negli interventi della prima parte di questa puntata, ovvero la statunitense Brody Dalle, dal suo album datato 2014. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con Brody Dalle. Ciao a tutti.